Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 8:19 minuti. Eccoci, caro Oscar Giannino, ben ritrovato. Caro Alessandro e cari tutti gli ascoltatori. Il salto l'abbiamo detto ieri. Salto, naturalmente ho fatto apposta ieri a dirlo. E infatti siamo anche ieri incappati in lettere di ascoltatori che hanno detto: ah, ma allora no, voi sostenete che i terroristi sono figli di Marte della Reconquista, siete negatori del cristianesimo. Abbiamo degli ascoltatori iperreattivi. Ma io lo sapevo, per quello l'ho anticipato. Bene. Allora oggi facciamo il secondo blocco di sante della giornata, che sono la bellezza di 116 tra religiosi e religiose, questa volta martiri in Vietnam, così questa volta i cristiani ascoltano, non ci credono, ecco, giustificatori dell'islamismo, mio Dio, mamma mia, quindi mamma Andrea Dong più 116, va bene, ma finché ci sono gli ascoltatori c'è speranza, non c'è dubbio. Ma Roberto Speranza, dici il parlamentare del PD, salutiamo Roberto Speranza capo, che è tra quelli che appunto dicono: ma insomma, non si possono mettere degli ostacoli per il compagno Bassolì, no. O Marie, no. Sì, cari ascoltatori, 800 24 00 24, che ve ne pare di questa decisione del Partito Democratico? Pare di voler mettere delle norme nuove per cui se uno ha fatto il sindaco non può più ricandidarsi alle primarie dopo un po'. Sì, adesso quelli di prima vanno bene, quelli di, come dice Bassolino, ma scusate, ma Bianco a Catania, Orlando a Palermo vanno bene, cioè va bene da adesso in poi, non va più bene. Infatti quelli mica finiscono con il no, Bassolino, infatti, no, non va bene, no. Deve essere invece che Bianco no. La regola è questa, se finisci questa. No, l'altro è una contraddizione nel cognome, quindi no, ma è un criterio, devo dire, di una grande... Ma la cosa bella è che, per così dire, il giorno prima il segretario scatena i vice segretari. Sì, esatto, però è furbo. Infatti stavo pensando la stessa cosa. Renzi è furbo. Prima la Serracchiani si è scatenata a dire... Adesso Renzi dice... Ma no, parliamone a gennaio delle primarie. Non è il momento di parlare delle primarie. I banchetti, poi, voglio dire, li facciamo a marzo addirittura. E Pisapia gli ha detto: no, a Milano li facciamo a febbraio. Qui non conta niente. Però è molto divertente questo utilizzare i vice segretari come cani scatenati dalla muta e poi richiamarli con l'ordine del sovrano Luigi XIV. Sì, devo dire, io Oscar ho sempre il pensiero che molti italiani che hanno tantissimi pensieri nella testa, il lavoro che manca, i figli da portare a scuola, abbiano sempre questo atteggiamento nei confronti di queste cose della politica, di sano distacco. Credo che abbiano ragione. Però insomma noi parliamo anche di questo perché sono tematiche che poi quando si va a votare saranno interessanti. Allora, più che altro testimonia dove abbiano la testa i politici, invece. Vogliamo sentirlo. Tra l'altro, ma sai che Marie No è rispuntato? È andato a un circolo del PD. È andato al circolo del PD e ha detto: voglio salvare il Partito Democratico da cosa? Senti un po'. Come nativo PD sento di lavorare per salvare il Partito Democratico, in particolare il Partito Democratico Romano, dal suo suicidio. Io lo voglio salvare dal suicidio. Cioè, Marino il salvatore del Partito Democratico, Ignazio Marino. Ma bisogna intendere il nativo come aborigeno, cioè vuole salvare gli indiani dallo sbarco dei coloni, non so. Ma no, c'è da però dire anche che... questo tono, perdonami, non lo trovi un po' eccessivo? Ma certo che lui ha talmente dei sassoloni nelle scarpe che secondo me ha iniziato a togliersi, anzi quando vorrà il professor Marino è invitato, ovviamente noi invitiamo tutti, quando vorrà. Carità, anche De Luca. No? Anche De Luca. Teniamo in attesa. Teniamo De Luca. No. Bassolini, no. Ecco, Bassolini, no. Si è un po' arrabbiato. Sentilo. Le regole non si cambiano in corso d'opera. Prima che il treno si fosse messo in cammino. È evidente, ma questo lo riconoscono tutti, che ora non si può fare. Non si può fare, non si può allora, fare. Vabbè, posso, dice una cosa di buon senso. No, non la dice. Testualmente dice: non si cambiano le regole prima che il treno si metta in cammino. Ti faccio notare che in italiano questa cosa non vuol dire niente, perché se ci sono regole da cambiare è meglio cambiare prima che il treno, esatto, altrimenti il treno deraglia. Però vabbè, lasciamo perdere. Va bene, va a bene. Proposito di treni, a proposito di treni, oggi c'è una notizia effettivamente su cui ha perso le 24 ore, ben in risalto su tutti i giornali. Caro sì. Oscar, privatizziamo il 40%. Non privatizziamo niente. No, questo c'è la privatizzazione. Ma questo è perché i giornalisti dovrebbero essere rottamati, perché per privatizzazione bisogna mettere nella cessione di controllo di un'azienda pubblica. Non si cede nulla, tant'è che mandiamo a casa prima l'amministratore delegato e il presidente delle Ferrovie, cioè Elia e Messori, perché tra loro litigano tra non privatizzare la rete, che non verrà privatizzata, resta integralmente pubblica, e non privatizzare ma cedendo il 40% di Trenitalia, che e fa qui, i servizi. E qui, scusa, sull'amministratore delegato c'è già un sostituto pronto. Ma guarda caso, guarda che caso, ha qualche fare con Firenze. Sì, guarda caso, è colui che ha risanato l'azienda trasporti di Firenze. No, l'ha comprata la ferrovia, comprato. Gli ha fatto un favore comprendo i soldi il sindaco, che allora era, chi era il sindaco allora? Pare Matteo Renzi. Pare allora, Matteo Renzi. Si chiama Riccardo Mazzoncini. Sarà lui quasi, ma guarda, certamente. Ma guarda il caso. Sarà lui l'amministratore delegato a guidare la non privatizzazione di Ferrovia. Ancora una volta segnalo, tra tutti, la mia personalissima opinione, tra tutti i giornali italiani, il miglior articolo stampa Alessandro Barbera, che ricorda oltretutto i 5 miliardi di Rulano che i contribuenti danno a Ferrovie dello Stato come sussidi, e vabbè, e ci spiega che non privatizzeremo. Sarà comunque un passo avanti di maggiore efficienza, però insomma, eccetera eccetera. Va bene, insomma, questa delle Ferrovie dello Stato staremo ovviamente a vedere l'apertura. Mazzoni. per molti cosa cioè, sei incuriosito dal fatto che è di Firenze? No. Ha lavorato a Firenze? Non è di Firenze, sì. Ma io sono sicuro che se questa raffica di cose personali che promana sempre più da Palazzo Chigi fosse stata opera di un governo di centrodestra, noi avremmo ben altri articoli sui giornali, sdegnate attenzioni, costituzionalisti che direbbero ci sono problemi di conflitti. Invece è un fatto che questi sono tutti commenti, sono nomine al di sopra di ogni dubbio. Ovviamente, se volete, parleremo ancora di terrorismo. Ecco, c'è una cosa che mi ha assolutamente colpito sul terrorismo. Perché se ci sono 4 presunti o potenziali jihadisti a Bologna, c'è un jeep che non li mette in carcere perché dice, per carità, codice alla mano, non ci saranno stati gli elementi per metterli in carcere. Questi inneggiavano alla jihad, eccetera. Risultato, vengono espulsi. Io ho detto in rassegna stampa, la reazione di questi jihadisti sarà stata questa. Grazie, grazie per essere espulsi. Ma voglio dire, ma espulsi, cioè, per carità, poi non è che vanno in Marocco e il Marocco è un paese tenero da questo punto di vista, se queste sono le accuse, ma cioè, cosa significa espulsi? Li abbiamo rimessi nel grande circuito del jihadismo internazionale? Spero di no. Spero di no, però in realtà non lo sappiamo. La realtà è che secondo l'ordinamento ci possono essere criteri divergenti tra le lunghe procedure di garanzia previste nei processi, eccetera, eccetera, e la valutazione immediata delle autorità di pubblica sicurezza che dicono, vabbè, senza aspettare i processi, tu secondo me sei pericoloso, via. In questo caso però io sono d'accordo con te, ma siamo così sicuri che sia meglio? No, non lo so, cioè, per carità. O li rimettiamo nell'acqua in cui i pesci pericolosi possono nuotare? A meno che, come qualcuno ha fatto notare, il Marocco è un paese non c'è, certo, tenero, se queste persone sono accusate di queste accuse. Io però ti voglio fare una domanda che mi viene da un articolo che ho letto e mi ha incuriosito sulla stampa di oggi, a proposito del fatto che in Francia si pongono, iniziano a porre un problema con gli autisti dei servizi pubblici di trasporto, che non vogliono mettere le mani su un volante se l'ha toccato un autista donna, che si fermano nel corso del servizio perché devono pregare verso la Mecca, che non salutano e non si rivolgono a passeggere donne, se cosa un altro lavoro. Anche tu sei d'accordo con me? Insomma, facciano un altro lavoro, ma insomma, sei un autista pubblico, devi fare il tuo lavoro. Puoi pregare quando vuoi, come i cattolici, come gli ebrei, come i buddisti, come gli induisti. Non ho capito perché dobbiamo avere sempre delle regole speciali per in questo caso immagino musulmani. Cioè, perché? No, io sono perché alcuni sosterrebbero, no? Sarebbe perché già considerarli diversi. L'eguaglianza delle religioni prevede che ci possano fare anche gli autisti che si fermano per pregare. Beh, no. Allora, facciano gli autisti e preghino, non in orario di servizio. Oh, io sono d'accordo con te. Non lo so, e se loro dicono, beh, il Corano prescrive questo orario, beh, non puoi fare l'autista. Non rivolgo la parola a una donna o non tocco il volante se ha guidato prima di me una donna e fai un altro lavoro. E come nel PD, Bassolì, no, e allora l'autista, no. Cioè, criteri abbastanza chiari. Tra l'altro, oggi il Messaggero, per la verità, nell'articolo è messo col condizionale, ma il titolo è abbastanza inquietante, se vero, due kamikaze di Parigi sono arrivati sui barconi dalla Siria alla Grecia e poi da qui ovviamente fino in Francia. Questo almeno, però, questo almeno è un'ipotesi che se verificata è abbastanza inquietante. Titolo inquietante, anche se però proprio gli altri numeri che ci sono in quella pagina fanno riflettere, perché da una parte è inquietante, dall'altra stiamo parlando di una cifra totale di 410.000 trasferiti nel solo Mediterraneo, 290.000 solo verso la Grecia, 3.000 morti. Per il momento il dubbio inquietante, come dici tu, di due kamikaze passati. Però stiamo parlando di due su questi. E non solo morti, guardate che c'è una foto che circola, io l'ho messa su Twitter, bravo. C'è una foto che circola, perché tutti, quando c'è stata la morte della piccola Ilan, hanno visto la foto a Bodrum in Turchia, eccetera. Ma c'è un'altra foto, ancora più inquietante se volete, di una bambina sempre di 4 anni, morta tra gli scogli, raccolta, no? Tra il corpicino raccolto tra gli scogli. Cioè, quindi nelle migrazioni c'è tutto, ci sono anche drammi umani come questi. La stima che accompagna le fotografie parla di almeno 70 bimbi di pochi mesi morti nell'Egeo, nel solo Egeo. Quindi, mio Dio. Allora, ci sono tante però, chiamate. A proposito di fanatismi, una parola anche sul Vaticano che processa i giornalisti. A proposito di agimi islamici, era da qualche giorno che il Cardinal Giannino non si esprimeva. Ma non ho capito. Allora, io, Cardinal Milan, ti do la facoltà di dire. Perché a proposito di fanatismi religiosi fuori dal mondo, oggi si apre il processo ai corvi e anche ai due giornalisti. Gianluigi io Nuzzi, devo dire la verità: io fossi un'autorità della Repubblica Italiana, con una nota formale, intimerei a questo paese sovrano, straniero, dagli singolari costumi, cioè quello di perseguire la libertà di stampa con minacce di pene di anni, che non osino proprio pensarci neanche per un secondo. A cosa? Processare? Perché ormai tuteleremo hanno i nostri usato. Cittadini Fittipaldi e Nuzzi con tutte le armi del nostro ordinamento affinché non vadano nelle galere medievali di questo paese a cui regaliamo l'8 per 1000 che utilizzano per ladroneria. Io e Giannino, in caso di condanna, petto in fuori contro le alabarde delle guardie svizzere. Ma scusate, sì, fuori dal mondo. No, ma effettivamente sì. Ma d'altronde il Vaticano non ha un articolo come abbiamo noi, per esempio, la Costituzione, articolo 21 sulla libertà di stampa, e quindi ma veramente non ha un articolo che si chiama libertà, che mi sembra molto più grave per tutti quelli che continuano a dire Papa Francesco. Hanno molta ragione, di fatto un papa che sia all'altezza dei tempi rifiuterebbe di avere un codice penale così articolato, cioè di mettere in galera, minacciare la galera a chi scrive libri su misfatti. Si perseguono quelli che fanno i misfatti, non certo, i misfatti. È questo sicuramente. Oh, ci segnala Marco via SMS, poi diamo qualche ascoltatore. Caro Oscar, caro Milan, sono un autista del trasporto pubblico a Firenze, conosco bene Mazzoncini essendo mio presidente, ti garantisco che da quando c'è questa nuova amministrazione saltano ogni giorno tra le 300 e le 400 corse. Vabbè, non lo so, non diamo, caro Marco, numero di telefono al presidente e non diamo neanche Mazzoncini per scontato che non abbiate questioni personali, però il nostro ascoltatore segnala questo. Allora, ci sono ascoltatori anche in linea come Mario da Roma. Buongiorno Mario. Buongiorno, una domanda veloce. Sì. A parte che mentre il paese è spaventato dal terrorismo, il partito di governo parla delle primarie di Bassolino. Io, diciamo, da persona originaria di Napoli che però vive a Roma, devo purtroppo riscontrare come un problema di tutto il mezzogiorno. Le classi dirigenti sono sempre le stesse da 20 anni. E quindi che domanda fa? Perché la domanda è: com'è possibile che non vi siano nuove energie, nuove risorse in grandi città come Napoli, come Palermo e come Catania, al punto tale da dover ricicciare, come si dice a Roma, Bassolino. E caro Mario, no, ma è la considerazione che facevo io ieri con Oscar fuori onda, dire: ma com'è tutto che io non conosco se Bassolino politicamente sia in grado, ma com'è possibile che si debba sempre guardare al passato in Italia invece che al futuro? E non è un giudizio. La mia risposta è che politico, poi non si lamentino se gli elettori cercano il futuro altrove, in altri partiti, in altre cose, perché è inevitabile, no? Certo. C'è da dire poi, non è che mentre c'è il terrorismo parlano, questo bisogna dirlo, per giorni e giorni si è parlato del terrorismo, nei giornali c'è anche questo, cioè adesso comincia a riaffiorare anche qualcosa di diverso, se no, no, però se no io capisco qualcuno che dice, non è che si pongono il problema, che so, sull'economia, che cosa bisogna fare per evitare... Si occupano di beghe interne, questo sì, forse sì, vuol dire. Sì, se non le beghe sì, interne. Le beghe interne ci sono sempre, il Partito Democratico. Non c'è dubbio. Sentirei... non solo nei partiti. Sì, diciamo sentirei da Napoli e vediamo. Michele, buongiorno Michele. Buongiorno a voi. Eccoci. Naturalmente chiamando a Napoli anche io su questo sarà tema interessato, di Bartolino, diciamo, più che il cambiamento delle regole in corso, mi sembra questo intervento denotare una completa sfiducia nel popolo delle primarie. Cioè in chi poi andrà a votare, perché se anche si candida alle primarie non è affatto scontato che poi venga scelto, e quindi un figlio delle primarie, come in questo caso ha detto Bassolino, su queste cose dovrebbe avere la sensibilità che lui richiedeva quando a sua volta fu eletto, cioè Renzi dice figlio delle primarie, il voto anche ai non iscritti e quindi ponendo le basi poi per poter fare l'esploit che ha fatto. Sì, ma io credo, guardi che non so se, come diceva prima Oscar, non so se è stato ingenuo o furbo Renzi, che ha mandato avanti quelli a dire questa cosa non Guerini si può fare e adesso invece dice ma ne parleremo a gennaio, non si sa, cioè farà forse quello che ha mandato avanti i suoi luogotenenti, diciamo così, e poi dirà no vabbè, ma Bassolino corra. Fatto sta però che la divergenza dei criteri, a Milano sembra che le primarie Renzi non le voglia perché c'è già Sala e gli danno fastidio, sì, quelli che non sono tirati indietro, altrove non ci devono essere, a Torino Fassino va bene così, altrove ci devono essere, però le regole sono per escludere alcuni candidati, ti rendi conto che non è questa grande trasparenza delle regole del grande rinnovatore, sta autoaffondando. Va bene, intanto sentiamo Massimo da Roma invece. Massimo, buongiorno. Buongiorno, senta, io che ti dico solo una cosa, a me mi sembra che il signor Renzi dice non disturbate il guidatore, cioè basta, no? Lui della democrazia se ne è sempre fregato. Sa che faccio fatica un po' a capire anche. Pronto? A sentire. Sì, dica Massimo. Sì? Che caduta. Mi sa che cosa ho capito, okay. Beh sì, la sentiamo un po' male, comunque dica, okay. Perché dice Renzi, se ne è fregato, non disturbate il guidatore, faccio tutto io, decido tutto io, e lui della democrazia se ne frega altamente. Dice che Renzi se ne frega della democrazia, vabbè, è un giudizio insomma non molto circostanziato, ma insomma è il suo giudizio, caro un po' Massimo, politico, va bene, un po' politico. Va bene, la ringraziamo. Diamo gli Oscar. And the Oscar goes to... Io non so a chi darlo, nel senso, in questa vicenda che ho raccontato da Asti, incredibile, un processo, forse lo do all'articolista, questo modo, il giornalista Massimo Coppero, che racconta la storia di questo processo ad Asti, dove vengono condannati un gruppo di sinti per associazione a delinquere, condannati, ma nello stesso processo la ricettazione invece viene prescritta, e quindi mentre vengono condannati per associazione a delinquere, lo Stato, cioè noi, gli restituiamo 1 milione di beni sequestrati e dovremo anche pagare le spese del deposito, lo pagherà il ministro della giustizia, il ministero, dove abbiamo tenuto tutti questi beni, caravan, auto, cioè non lo so, mamma mia, il ragazzi, paradosso del paradosso, no? Dico, vabbè. Poi dai, dici che vuoi che l'Italia funzioni. No, ma va bene così. Va bene. Naturalmente, stiamo attenti, cari ascoltatori. Alessandro parla del paradosso della vicenda giudiziaria. Non prendete la faccia dei sinti. No, dico perché oramai qui un giorno il cane, sì, l'altro giorno la santa. Spieghiamo sempre. Spieghiamo. Io invece sempre lo do a un evergreen. L'intervista con cui a Repubblica Massimo D'Alema ci dà la sua lettura dei fatti mondiali e dice: il nemico è l'Arabia Saudita, i buoni sono Teheran, e fosse per me manderei un bel contingente di terra. Allora la delicatezza con cui in cristalliera entra questo elefante. Sì, ma non solo, dice anche: ma scusi, perché l'Italia non è consultata? Esatto. Ma l'Italia non è una grande potenza, che il sottotesto è da quando non ci sono ma più no, io. Tradotto esattamente. Da quando così. Non ci sono più, l'Italia non conta però, più. Insomma, niente. Il nemico è l'Arabia Saudita, sappiatelo. Teheran, abbiamo sbagliato tutto. Teheran, buoni, guarda caso la stessa posizione di Putin. E poi il contingente di terra, ma perché no? Basterebbe chiederlo al Consiglio europeo, però D'Alema vorrebbe i nostri bersaglieri con le piume nel deserto siriano. Evviva. Noi andiamo invece alla pubblicità, poi avremo Claudio Velardi ai nostri microfoni. State ascoltando un programma offerto da... Più libri, più liberi. Dal 4 all'8 dicembre al Palazzo dei Congressi dell'Eur, Roma. Eccoci qua, sono le 8:42 minuti, caro Oscar Giannino. Ma noi abbiamo trascurato una notizia forse fondamentale per la politica italiana. La fusione da 160 miliardi delle due aziende, Botox più Viagra per la politica italiana, è l'autostrada del futuro. Ecco perché non rinnovano, perché col Botox e Viagra si risolve il problema del futuro sia delle politiche donne che dei politici uomini. No, come no? Guarda che è così. Spieghiamolo, in America la Pfizer e la Allergan. Cioè i produttori di tanti prodotti, ma, tra cui insomma, il Viagra, la Pfizer e il Botox, l'Allergan, due frontiere dell'eternità si no? sono fuse, che tra l'altro Pfizer più Botox viene una roba disastrosa messa insieme. Direi di sì, si ma sono sicuramente fuse. I politici, ecco perché Bassolino, cioè, capito? Cioè, ah, sono tu dici che Pfizer e Botox sono i due più grandi, sono grandi distributori prodotti. Di prodotti, sì, per i politici italiani. Per i politici italiani. Devo ammettere che guardando a destra, ma guardando anche la sinistra, voglio dire, il rinnovamento Pfizer e Botox, non so, chiediamolo al nostro ospite. No, dai, ma no, era una maniera per ironizzare su una grandissima notizia di borsa finanziaria. È un uomo di grande spirito, è Claudio Velardi. Buongiorno Velardi. Buongiorno a voi. Più Pfizer o più Botox nella politica italiana ci sarà? Diciamo, essendo il paese più vicino del mondo, politici e non politici. E non politici, bravo Claudio. Allora, Claudio Velardi, però questa storia di Bassoli no, come lo chiamiamo noi, o no. Marie no, no. A noi però un po' infastidisce, perché ma com'è possibile? Lo decideranno gli elettori, no? Se Bassoli no, non deve fare non deve diventare candidato sindaco. Sì, ma infatti mettiamola anche nella maniera più semplice: se da questo pasticcio delle primarie escono nella maniera peggiore, Bassolino si candiderà con una sua lista civica e si misurerà direttamente con gli elettori. Ma non gliene vogliono fare le primarie, almeno pare che vogliono mettere questa regola. Nel caso lui ha già detto o fatto intendere che nel caso in cui non facessero le primarie o gli fossero impedita, gli fosse impedita la partecipazione alle primarie, lui si candiderebbe da solo con una lista civica e quindi si misurerebbe di fronte agli elettori direttamente. Certo, però il nodo, a mio parere il nodo politico rimane, cioè che un partito cambi le regole. Ma il nodo politico, però Alessandro, il nodo politico, le primarie sono, anzi no, partiamo un attimo dal, tu sai, no, che i partiti italiani sono illegali. Perché non hanno bilanci, non hanno procedure interne, congressuali, per cui ognuno può decidere, un segretario di partito può decidere, faccio il congresso mo oppure lo faccio tra due anni, solo in base ai miei alle mie convenienze. All'interno, diciamo, di questa condizione di illegalità, le primarie sono uno strumento mai normato in nessun modo. Le hanno fatte in tutte le maniere possibili, hanno fatto primarie chiuse e primarie aperte, primarie di partito e primarie di coalizione, con il voto a 16 anni oppure con il voto a 18. Quindi si possono cambiare. Ogni volta hanno deciso, diciamo, di farle in una maniera diversa. Adesso, a voler stare, diciamo, dentro questo dibattito grottesco, diciamo, del PD, che poi giustamente ieri Renzi ha chiuso dicendo siete disassati. Non avete preso questa espressione carina, cioè disassati nel senso di fuori asse. E mentre si discute d'altro nel mondo, voi state a parlare di queste sciocchezze. Lui va sempre come uscistene, diciamo, perché erano stati i suoi vice segretari a parlarne. Esatto, manda avanti gli altri, ma chiaramente mandati avanti, lui è un bacchione, questo lo sappiamo. Ma comunque, appunto, all'interno di questo casino, di questo caos delle regole che vengono stiracchiate di qua e di là, succede che poi, appunto, lui mandi avanti i suoi per dare dei messaggi a Bassolino e a tutti quanti gli altri, e poi placidamente, tranquillamente parliamo d'altro, dice parliamo d'altro, parliamo delle cose importanti. Voi siete fuori asse, ne riparliamo a gennaio. Ma il punto è, però, mi permetto di dire, voglio dire in maniera particolare a Oscar per la passione che ha per questi temi. Sì. Io sono napoletano, io vorrei discutere di Napoli e delle elezioni prossime partendo da mettendo due paroline: Capodichino e Bagnoli. Ah. Allora, Bagnoli è il più grosso disastro, sì, combinato da Bassolino, già, in primis 20 anni fa, già, un'area enorme tutta quanta messa nelle mani del fondamentalismo ambientalista, che non consente quindi nessuno sviluppo turistico, produttivo, imprenditoriale, perché è un'area praticamente tutta quanta bloccata dalle politiche che allora Bassolino fece da sindaco. Capodichino è l'esempio opposto. A Capodichino, andate all'aeroporto di Capodichino e troverete un'oasi di civiltà dentro una terra, diciamo, problematica, diciamo così. Capodichino è stata venduta ai privati, prima gli inglesi, poi gli spagnoli, poi adesso c'era il fondo per gli investimenti di Gamberale, no? Che ancora sponitare, e Capodichino funziona. Anche Capodichino fu fatto da Bassolino. Allora, a me non mi frega niente di queste primarie. Io voglio sapere se Bassolino torna, fa Bagnoli o Capodichino? Fa B o fa C, ecco, esattamente. E questo è quello che interessa poi i napoletani, perché i napoletani... Posso fare una domanda a te, che insomma a Napoli la conosci, conosci il PD a Napoli. Ma in realtà, una cosa io non capisco, questo nuovo Bassolino così determinato, secondo te, sì, ha come obiettivo più essere tra quelli che danno una mano a sconfiggere Renzi, perché sapeva che Renzi, insomma, no, a Renzi non può piacere questa cosa, o in realtà il suo vero obiettivo è non lasciare la Napoli futura e anche il PD futuro nelle mani di De Luca? Perché io... la seconda che hai detto. La seconda. Perché il vero, diciamo, dal punto di vista politico, il vero problema che nascerebbe, diciamo, da una coesistenza tra Bassolino e De Luca sarebbe questa specie di guerra atomica, termonucleare, che si scatenerebbe. Questo è il vero problema. Io solo immaginare Bassolino a Palazzo San Giacomo e De Luca alla Regione, per voi sarebbe uno show continuo, immagino che ci sono i caschi blu tra Palazzo San Giacomo a quel punto, ecco, cioè una linea di interposizione internazionale. No, Renzi no, lui non ce l'ha affatto, anzi anche ieri lo ha invocato, come avete visto, perché in realtà lui vorrebbe in buona sostanza, come si dice dalle mie parti, togliersi gli schiaffi da dosso, di quelli che ha preso quando è stato presidente della regione, dimostrare, e che in questo c'è veramente un punto di verità, di genuinità, no? In questa cosa che lui vuole fare, e dimostrare che invece lui è un politico capace, vigoroso, che Napoli sa come guidarla e così via. Questa è la sua, diciamo, ambizione anche abbastanza dichiarata. Sì. Però il punto è che non si dice che cosa vuole fare, capito? Beh, non è tanto questione di primarie, ma alla fine, insomma, chi se ne frega. Vabbè, diciamo, è anche prematura la questione di che cosa vuol fare, però c'è anche l'altra questione di Roma, c'è anche l'altra questione di Roma di Marino, cioè Marino che è rispuntato, Marino che futuro politico può avere? No, lì siamo in presenza di un fantasma, lì siamo al capitolo zombie, onestamente. Fenomeni mesmerici. Addirittura. No, lui no, non mi sembra che possa avere un futuro politico. Bassolino, come avete visto, non si può negare che sia un protagonista politico, perché è arrivato lui sulla scena, ecco, ha combinato, se l'è presa la scena. Sì. E di Marino chi se ne frega che sia andato a sedere dentro la sezione del PC, come si chiama, del PD, insomma, PD, sì, si chiama PD ultimamente. Sì, PD, no, questo Vezzo Togliattiano, di non ricordare il nome, Vezzi Togliattiano. Sì. No, non mi pare che i casi non sono assolutamente paragonabili. C'è proprio un problema di statura, di spessore politico differente. Però tu non potrai negare, voglio dire, visto che siamo nell'ambito di chi non disconosce i meriti di Renzi, però non potrei negare che qui il bilancio della gestione nella grande città, qui personaggi nuovi di riferimento con Renzi segretario non escono. Sembra che la reazione sia tutta contraria. Ci sono problemi da Torino a Milano, da Genova al Veneto, da Bologna a Roma, a Napoli, alla Sicilia, e insomma... No, lui non ha ancora costruito, anzi non ha ancora messo mano alla costruzione di una classe dirigente. Io ho un'idea tutta mia che dico da molto tempo su come lui dovrebbe fare. E cioè? Ed è un'idea che lui non accoglie nella maniera più assoluta. Lui dovrebbe separare e scindere le responsabilità. Restare Presidente del Consiglio, affidare ad una sua persona, al migliore che ha, anzi alla Boschi, squadra, il partito, con il mandato di rifare il partito in tutta quanta l'Italia, facendo con il segretario del partito un patto d'acciaio per il 2018, si ricandida Renzi, vince le elezioni, il 2023 se ne va, e arriva la hai capito, cioè, tutto è nella testa di grande patti craxi de mita nella testa di Velardi, cari italiani, è tutto chiaro, fino almeno fino al 2020 e al termine della Boschi al Quirinale, Tony Blair e Gordon Brown, lo sai che quel patto non ha portato molto bene, quindi fammi capire, 2018 2023 la Boschi, 2026 fino al 2027 siamo a posto, forse poi arriviamo noi pieni di botox e di viagra. Esatto, 2027 siamo a posto. Va bene, dai, Claudio Velardi, ringraziamo. Grazie, Claudio Velardi. Grazie per essere stato con noi. Ci sono ancora ascoltatori. Marco da Prato. Marco, buongiorno. Buongiorno, io volevo riallacciarmi a quello che aveva detto Giannino prima, sì, per quello che riguardava le nomine, sì, sì, sempre ad hoc, sì, sempre così, e anche al fatto del salvataggio delle banche. Sì. Tra cui c'è anche la banca del Babbo della Boschi. Sì. L'avesse fatto Berlusconi, probabilmente ci sarebbero stati girotondi anche in Svezia, non solo in Italia, queste cose. È incredibile. E l'altra cosa che volevo dire, mi scusi, sì, è questa. Tutte le volte che c'è da prendere posizione, sì, Renzi fa fare un commento ai suoi. E poi, l'abbiamo detto, è l'abilità del politico, l'abilità politica. Sa com'è il puparo, tira i fili, questo è più o meno il suo mestiere. Tra l'altro mi fanno notare, caro Oscar, anche Alfano. No. Alfano sì. Chiudiamo con Sergio da Bologna, grazie Sergio. Però vale anche per Berlusconi che va dalla Lega e finisce con un Salvini. Sergio da Bologna. Pronto? Pronto. No, io mi rilassavo a quanto avevate detto in merito al dover da parte degli autisti, sì, islamici in Francia di dover seguire le leggi. Comunque riguarda un po' tutti gli operatori di servizio, sì, pubblico, chiaro, cioè, di servizio pubblico. Per coerenza, in Italia bisognerebbe applicarlo ai dottori che fanno gli obiettori di coscienza negli ospedali o agli insegnanti di determinate scuole, però soprattutto aspetta. Il dottore di coscienza è un'altra cosa, no? Loro sono stati assunti dopo l'entrata in vigore di una legge, io sono un cittadino che ho bisogno. Allora, no, me lo spiego perché giudicamento. Però devi farlo in 10 secondi. Per gli obiettori di coscienza, e sono d'accordo con lei, non avviene in maniera abbastanza efficiente. Comunque è prevista che dichiarata l'obiezione il servizio sia come diritto garantito. Naturalmente in alcune regioni è un po' discutibile come. Però nel caso che invece l'autista smetta, il servizio non lo può garantire nessuno al suo posto in quel momento. È proprio diversa la questione. Sì. Però come la mettiamo? Perché dico Giannino. Scusate, sono coerente. Giannino, no, infatti è sempre un no, perché Bastian no, contrario si merita, vabbè, no, vabbè, e le giuste censure ci mancherebbero. Grazie a tutti. Giornale Radio, viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Radio 24.